Beh, Deborah, allora se è il tuo compleanno, tra poco te la canta la canzoncina, va bene? Oggi è il tuo compleanno, a me, a te, a me, a te, festeggiamo tutti insieme sorseggiando un po' di tè e tanti, tanti auguri a te. Auguri! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ebbene sì, è il compleanno di Deborah Rosciani. Deborah che per l'occasione però oggi ha preso un giorno di vacanza, giustamente anche per godersi il compleanno. E allora ci sono stati ascoltatori che molto carinamente hanno lasciato messaggi, l'avete ascoltato prima della sigla, ribadiamo con questo commento musicale messo in onda dal solerte Filippo Aureggi questa mattina in regia, mentre dietro di lui una spumeggiante Claudia Schiattone controlla che tutto stia funzionando a dovere secondo i dettami impartiti dall'ottimo Marco Lombardo, sempre vigile da remoto. Allora, il nostro ascoltatore che ha cantato tanti auguri l'ha fatto gratuitamente, vogliamo precisarlo perché? Perché ci sono adesso dei VIP, specialmente negli Stati Uniti, che fanno dei video di auguri alle persone, però vogliono essere pagati per farlo. Quindi il nostro ascoltatore magari potrebbe dire che ha perso un'occasione, poteva chiedere qualcosa anche a Radio 24, noi penso che non gli avremmo corrisposto alcun che, però lecito chiedere, come si dice. Però quello che sta succedendo invece è che c'è proprio un sito, non diciamo quale, che aiuta a identificare il personaggio che interessa, inviare la richiesta. Dopo qualche giorno arriva il video via WhatsApp e via mail con il nome del destinatario del video, qualche particolare, si paga con carta di credito, si aspetta il video. Massimo di attesa una settimana, prezzi che possono variare a seconda ovviamente della disponibilità dell'artista, della personalità coinvolta e anche immaginiamo a seconda di quanti chiedono video per questo particolare, questa particolare formula di auguri. E di auguri in qualche modo abbiamo bisogno tutti quanti oggi, non solo chi festeggia il compleanno. E allora andremo a vedere, come tutti i lunedì, che cosa si prospetta sui mercati finanziari, sulle borse e anche un po' nell'economia reale. Insomma, ne abbiamo parlato anche giovedì scorso nel corso del nostro Investire Informati. C'è questa divaricazione tra l'andamento delle borse e i segnali che invece arrivano dall'economia reale, dall'occupazione, dalla produzione industriale. Ne parleremo naturalmente tra pochissimo nel nostro consueto appuntamento del lunedì Meteo Borsa. A seguire, dopo un breve giornale radio del risparmio, quindi tutto secondo copione, avremo invece un ritorno su un tema a noi gradito, per così dire, un tema carsico qui a Due di Denari, ne parliamo spesso, il fondo indennizzo risparmiatori. È chiaro che con il Covid tutto ha subito un po' di modifiche, vorremmo fare il punto anche perché incombe un termine, quello del 18 di giugno, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione dopo le 11:30 con l'avvocato Barbara Puschiasis, che è presidente di Consumatori Attivi e tra l'altro, mi fa piacere ricordarlo, fa parte anche degli esperti che ci aiutano a rispondere alle domande che inviate a HomoCovid con l'H davanti. HomoCovid con l'H davanti lo trovate sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Lì nella sezione delle iniziative speciali trovate questo HomoCovid, che è appunto una serie di indicazioni che forniamo agli ascoltatori per tutti i dubbi che caratterizzano questa fase del coronavirus, le provviste, quello che si può fare, gli spostamenti, insomma tutto quello che ci procura delle domande in questi mesi così particolarmente segnati. Bene, siamo pronti allora, fatta questa rassegna delle cose che di cui andremo ad occuparci nella prossima ora, siamo pronti per il nostro primo appuntamento, l'appuntamento del lunedì, Meteo Borsa. Meteo Borsa. il meteorologo interprete aruspice dei mercati finanziari questa mattina, Giovanni Brambilla, amministratore delegato, responsabile investimenti di A come ASGR. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, non è la prima volta che lei si collega con noi in questa veste particolare. Buongiorno, dottor Brambilla. Buongiorno a tutti. Come va? Verrebbe da chiedere, perché diciamo va benino, nel senso che veniamo da una settimana buona, positiva, sui listini, continuiamo a vedere valori invece pessimi per quanto riguarda l'economia reale, con stime oscillanti su quanto perderemo in termini di prodotto interno lordo, quanto perderemo non solo noi italiani, voglio dire un po' tutto il mondo, in termini di occupazione e così via. Come va, dottor Brambilla? Ce lo dica lei. Beh, direi che va bene da un punto di vista di mercati finanziari, nel senso che, come diceva, al di là anche della performance particolarmente brillante della settimana scorsa e soprattutto credo anche del fatto che c'è un po' di quello che noi chiamiamo la rotation, cioè la rotazione anche intrasettoriale, quindi cominciamo anche a vedere movimenti di titoli che magari anche prima del Covid erano rimasti un pochino fuori dai radar screen degli investitori. Quindi direi che la parte diciamo di economia finanziaria va bene, vanno bene le obbligazioni, c'è stato un ottimo movimento anche da parte del comparto obbligazionario, e non solo italiano, emergente, corporate, insomma un po' diciamo abbastanza generalizzato, e questo ovviamente è legato sicuramente alla forte presenza delle banche centrali, che sono intervenute in maniera molto repentina e molto forte, e credo anche soprattutto lato europeo, anche dal fatto che per la prima volta dopo 10 anni abbiamo cambiato un po' rotta per quanto riguarda la politica fiscale. Cioè l'Europa, a differenza degli Stati Uniti e del Giappone e di altri paesi che in questi ultimi 10 anni avevano comunque appoggiato l'espansione monetaria anche con una politica fiscale espansiva, l'Europa era rimasta assolutamente rigida sulla sua posizione, diciamo un po' più legata all'idea tedesca di austerità, quindi di contenimento dei debiti, di riduzione delle spese, di riduzione dei bilanci. Ovviamente questo ha comportato un asciugamento della crescita. Mentre invece quello che sta avvenendo oggi è esattamente un cambio di rotta, cioè abbiamo aperto, come è stato già in altre situazioni, i cordoni delle borse anche dal punto di vista di governi e non solo di banche centrali, e è stata ovviamente il Covid l'ha resa necessaria, però diciamo c'è stato un cambiamento di rotta sulla politica fiscale, quindi una politica fiscale aggressiva, una politica fiscale espansiva. E questo sicuramente ha portato nell'immediato dei risultati importanti nell'economia finanziaria. Nell'economia reale sì. lo vedremo ovviamente quando diciamo questi investimenti o comunque questa spesa fiscale comincerà a dare i suoi frutti. È ovvio che oggi nell'immediato è difficile poter ripartire anche con un'economia reale, anche con l'economia reale in maniera così rapida e repentina come hanno fatto invece i mercati finanziari. Certo, tra l'altro oggi ne approfitto perché mentre noi stiamo parlando sta per essere presentato un nuovo titolo per il pubblico retail, insomma per tutti noi, per quel risparmiatore qualsiasi, traduco in questo modo un po' brutale, sì. Un nuovo titolo di Stato, un po' come è successo per il BTP Italia pochissime settimane fa, adesso ci sarà un nuovo titolo, anche questo di durata pluriannuale, quindi mi immagino che tutti i dettagli saranno poi noti dalle 12 in avanti, perché alle 11:30 è fissata la conferenza stampa. Prima lei citava appunto il mercato obbligazionario, ma direi appunto questo forte indebitamento fa parte di questa spinta dei governi per cercare di ridare subito benzina, di ridare subito carburante anche all'economia reale, non solo ai mercati finanziari. Ma certamente questo è diciamo l'obiettivo dei governi e anche delle banche centrali, che poi dovranno sostenere questo diciamo ulteriore espansione del debito, che si accompagna ad una posizione debitoria soprattutto di alcuni stati come come la stessa Italia, che ha già una posizione debitoria particolarmente significativa. E quindi sicuramente con questo sarà uno degli strumenti che probabilmente avranno un riguardo particolare per diciamo l'investitore retail, quindi l'investitore, come ha usato lei, comune, come siamo tutti noi, che in particolar modo per quanto riguarda il risparmiatore italiano, questo ovviamente in generale come stock di risparmio, siamo tra i più ricchi d'Europa, se non i più ricchi, e quindi credo che anche noi come risparmiatori dobbiamo fare un po' il nostro lavoro, nel senso che gli strumenti saranno sicuramente strumenti come è stato il BTP Italia, che avranno dei rendimenti ovviamente in linea con quelli che sono i rendimenti attuali, perché se il mercato obbligazionario va bene il rendimento scende, e quindi ovviamente non possiamo pensare di avere rendimenti particolarmente fuori mercato, però sicuramente qualche incentivo per il retail, soprattutto per chi deterrà lo strumento fino a scadenza, ci sarà. Adesso i dettagli non li conosciamo. Vedremo i dettagli, certamente. Perché poi però anche questo è uno strumento utile per il risparmiatore, sì, e anche per lo Stato Italia. Ecco, perché mi sono scordato di precisare, anche questo strumento è collegato, la raccolta meglio di questo strumento è collegata a sostenere le spese legate alla, esatto, epidemia, quindi al coronavirus, quindi ad esempio pensiamo a tutte le misure di cassa integrazione e di sostegni straordinari che sono stati disposti per le varie categorie, insomma dai 600 euro di cui abbiamo parlato tante volte, per arrivare anche ad altre misure. Prima di questa trasmissione, nella nostra chiacchierata, per dir così, a microfoni spenti, dottor Brambilla, lei segnalava l'importanza di cogliere adeguatamente il cambio di linea dato dal Recovery Fund. Recovery Fund che non è ancora operativo, mancano ancora diversi passaggi, dobbiamo vedere tutti i dettagli, i tempi di erogazione di questi fondi, eccetera, eccetera. Però lei mi segnalava c'è un cambio di indirizzo, un cambio di mentalità da parte dell'Unione Europea, che effettivamente è poi buona parte probabilmente di quello che è l'ottimismo dei mercati, perlomeno di quelli continentali. Certamente questo è un punto, ha toccato un punto dal mio, diciamo, per quanto riguarda la mia posizione personale, fondamentale. Io ovviamente sono un europeista e credo che questo passaggio sia assolutamente fondamentale per costruire un'Europa diversa da quella che è stata fino ad oggi, almeno da un punto di vista di diciamo finanziario. Perché? Perché il Recovery Fund, a differenza di tutti gli altri strumenti che i più conoscono, dal MES, che è quello più citato, che è il cosiddetto Fondo Salva Stati, che mette a disposizione delle risorse prima con dei vincoli, oggi ovviamente dopo il Covid senza vincoli, ma che vanno a pesare sempre sui debiti dei singoli stati, il Recovery Fund è uno strumento europeo. Cosa significa? Significa che l'entità che assumerà il debito è l'entità Europa. Questo debito verrà poi, viene emesso, ovviamente viene comprato dagli investitori, verrà comprato dalle banche, dalla BCE, come vengono comprati i debiti dei singoli stati, ma non andrà a gravare sul cosiddetti ratio o sullo stock di debito dei singoli stati, perché rimarrà in capo all'Europa, che avrà una sua avrà la possibilità di poter emettere un proprio debito, che andrà ovviamente ad essere commisurato rispetto al PIL europeo. Ovviamente poi questo stock di debito verrà distribuito secondo delle regole che sono già state stabilite. Quindi sappiamo già che in Italia, attraverso queste due forme del Recovery Fund, una che non va a gravare, l'altra che invece va a gravare perché è più sotto forma di prestito e non di strumento a fondo perso, quindi la seconda forma andrà a gravare un pochino sul debito pubblico del paese, ma con delle condizioni di tassi che sono sicuramente vantaggiose rispetto a quelle che paghiamo oggi. Ecco, questa tipologia di strumento darà per esempio all'Italia oltre 170 miliardi per poter far fronte a tutta una serie di investimenti, di ammodernamento del paese, quindi è quella che dicevo prima, la cosiddetta spesa fiscale, spesa pubblica che non abbiamo visto negli ultimi 10 anni. E questo, quindi questo dovrebbe dare una spinta importante nella direzione della ripartenza, della crescita. Dottor Brambilla, le faccio un'ultima domanda, sì. Non le chiedo la sfera di cristallo, ma un po' sì, effettivamente. Noi abbiamo avuto delle settimane di grandissima volatilità, insomma, veramente rialzi e ribassi bruschi, davvero da perderci un po' anche la pazienza per quanto riguarda il piccolo risparmiatore. Lei prevede che questa volatilità, fatti tutti questi discorsi che ci ha spiegato ora, cioè il maggiore impegno dei governi, il sostegno del debito, stia andando un pochino a ridursi, a rientrare nell'ambito delle normali oscillazioni, o dovremo ancora aspettarci, voglio dire, a breve, nelle prossime settimane, ancora qualche strappo brusco, in su o in giù, non voglio essere pessimista per forza. È una domanda abbastanza difficile a cui rispondere. Allora, la volatilità innanzitutto è un elemento che fa parte dell'investimento. La volatilità in generale si crea nel momento in cui i mercati vengono sorpresi da qualcosa che non si aspettavano. Quindi le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo, come diceva lei prima, positive o negative, perché ovviamente la volatilità, diciamo, più repentina è quella delle correzioni. In effetti quello che abbiamo assistito da inizio marzo fino a oltre la metà di marzo, quelle 2-3 settimane, è stata una delle correzioni più violente che ci sia mai stata, non tanto in termini di percentuale di correzione, ma in termini di tempo in cui questa correzione è avvenuta. È stata la più repentina, diciamo, più veloce. Esattamente. E questo sicuramente è dovuto un po' al fatto che i mercati finanziari sono guidati molto, e questo è stato un po' lo sviluppo degli ultimi 10 anni, ma particolarmente negli ultimi 5-6 anni, sono guidati molto da questi strumenti, da questi algoritmi matematici, da questi strumenti di gestione passiva, gli ETF, che ormai sono una grossa parte del nostro mercato finanziario, che ovviamente lavorano molto sul cosiddetto risk on e risk off. Quindi risk on tutti vanno a comprare, risk off tutti vanno a vendere. E ovviamente questo, per noi che siamo dei gestori attivi, crea delle opportunità significative, perché ovviamente questo tipo di correzione così brusca ci ha dato la possibilità di comprare delle aziende che avevano molto più valore di quanto secondo noi dimostravano i prezzi del mercato. In effetti poi oggi questa risalita ha sicuramente lo dimostra, dato ragione. Però sicuramente la volatilità è qualcosa su cui dovremmo sempre confrontarci, ed è quella anche che ci dà la possibilità di avere rendimenti, perché senza volatilità è difficile avere rendimenti. Certo. Cioè un'attività finanziaria che non ha volatilità non ha senso che abbia nessun tipo di rendimento. È molto tranquilla ma poco soddisfacente. La ringrazio, grazie a Giovanni Brambilla, amministratore delegato e responsabile di investimenti di Acome SGR. Grazie a voi, faccio in diretta gli auguri a Deborah. Ma volentieri presenteremo, come si dice. Grazie dottor Brambilla, e adesso, caro Filippo, il giornale radio del risparmio. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Quell'ascensore partì ed ero con gli altri, tra i bimbi di un colore che è diverso dal mio, ognuno una speranza dentro sé, chissà là in cima il sole che c'è. Allora, l'ascensore citato da Adriano Celentano, perché oggi con il Sole 24 Ore, due segnalazioni nelle molte cose che potete trovare, tra cui tra l'altro un ritorno sull'approfondimento della sanatoria regolarizzazione per colf e braccianti, quindi immigrati ma non solo. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa proprio qui a Due di Denari, oggi una nuova pagina di approfondimento sul Sole 24 Ore. Ma sul Sole 24 Ore trovate anche una guida rapida dell'esperto risponde dedicata proprio agli agli ascensori, specialmente gli ascensori in condominio, perché sono spesso motivo di lite, ma sono anche poi motivo di spese, e quindi un riepilogo anche per quanto riguarda le norme di sicurezza imposte dal coronavirus. Oh, e arriva la stagione dell'IMU. L'IMU ci guarda dalla scadenza di martedì 16 giugno. Proroghe poche, molto poche. Lo riferiamo oggi su Sole 24 Ore, un lavoro svolto da Dario Acquaro e Flavia Landolfi. Sostanzialmente i comuni hanno cercato di tenere ferma la scadenza anche perché in crisi con altri tipi di entrate, e quindi hanno la necessità di incassare, almeno per quanto riguarda l'IMU. Più facile qualche proroga per quanto riguarda la tassa rifiuti, la Tari, ma sull'IMU appunto ci sono pochi margini. Invitiamo tutti a verificare in vista della scadenza del 16 giugno sul sito del proprio comune se è cambiato qualcosa, è cambiata qualche regola, ma la cosa importante è se la scadenza di martedì 16 è confermata. Allora, sarà un click day, oramai l'abbiamo capito, che quale sarà il click day per i 120 milioni del bonus biciclette, monopattini, insomma mobilità dolce, eccetera eccetera. Varrà l'ordine delle domande, ci sarà una piattaforma ministeriale con una app dedicata, questo è previsto in una bozza di decreto ministeriale di attuazione, è stata anticipata venerdì sera sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Richiesta fortissima, bonus previsto naturalmente, come dicevo, anche per i monopattini, gli hoverboard, insomma altri strumenti di mobilità di questo tipo, ma anche abbonamenti a servizi di sharing per mezzi diversi dalle automobili. Allora, quello che si prevede è che sarà una corsa al rimborso, la richiesta di rimborso, e quindi i 120 milioni saranno molto pochi, si riveleranno subito assegnati. Un'ultima notizia riguarda il risparmio. È stato diffuso un sondaggio di Fabi. Nel 2019 gli italiani hanno preferito, noi italiani abbiamo preferito ridurre il rischio. Non si sapeva ancora nulla del coronavirus, però sono aumentati depositi, polizze assicurative, fondi pensione, sono diminuiti azioni e titoli di Stato. Per tutto questo un comportamento all'insegna del rischio zero. È un'analisi del sindacato Fabi sul risparmi nostri cresciuti di 45 miliardi di euro nel corso del 2019. Ma di risparmio tradito del fondo indennizzo risparmiatori parliamo tra pochissimo dopo l'aggiornamento sui mercati finanziari. Vi ricordo i numeri: 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Andiamo ad ascoltare Dillo a due di Denari. Dillo a due di Denari. 51 anni e volevo dirvi due o tre cose sul fatto dell'incapacità degli ultra cinquantenni con queste nuove tecnologie. Poi ho deciso di dire a quel signore solo una cosa, e te la dico detta in fiorentino: ma va a letto e copriti bene. Attenzione però che ci sono dei plurilaureati di 25, 26, 30 anni che hanno difficoltà a compilare un modulo di una raccomandata. Buongiorno, ma con lo speed si potrebbe anche votare, che ne so, alle elezioni o ai referendum? E domandine mica da poco mentre proseguono le polemiche sugli over 50 e gli under 50 alle prese con il digitale. Va bene, ne parliamo, ne parleremo, torneremo a parlarne. Vi ricordo, tra poco, fondo di indennizzo per i risparmiatori, ma tutto questo dopo le borse. Ci aggiorna Livia Zancaner, che sappiamo essere negli amorosi pensieri di Leonardo Manera, che salutiamo caramente. Le borse. Questi due, la Rosciani e l'altro, lì, tutto con sta pergamena, con sta cacca. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Di denari. Click day, Ma desmet, me alza! Lil Garesun ha ragione, cosa vuole che le dica? Glielo dico in vernacolo padano. D'altra parte, chi bisogna parlare anche questo inglese che le de per tutte, cioè bisogna qui al momento attuale bisogna anche parlare questo inglese che è dappertutto con questa sottotitolatura. Do il benvenuto a Due di Denari all'avvocato Barbara Puschiasis. Di solito siamo più seri, ma oggi col fatto che non c'è Deborah me ne sto un po' approfittando. Avvocato, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, con l'avvocato Puschiasis dobbiamo rifare il punto sul FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori. Intanto vi ricordo i numeri per inviare le vostre domande, entrare in contatto con noi. 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. 349-238-6666 è il numero invece per i vostri SMS e WhatsApp. Allora, per il Fondo Indennizzo Risparmiatori, cominciamo dicendo, è quel fondo, ma ormai lo sappiamo tutti, insomma, istituito presso il Ministero dell'Economia, serve a ristorare in tutto o in parte i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate che sono state poste in liquidazione coatta tra il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018. Insomma, sono le banche risolte, come abbiamo imparato a chiamarle, e quello che prevede appunto ristorare, di dare un indennizzo ai risparmiatori in misure diverse a seconda dello strumento nel quale avevano investito. E fin qui diciamo che abbiamo imparato tutto. Poi è arrivato il coronavirus, le scadenze si sono un po' pasticciate, già erano complicate da prima, adesso incombe su tutti i risparmiatori interessati la scadenza del 18 di giugno. Lo dico scandendo perché appena prima parlavamo di un'altra scadenza che è il 16, che non c'entra nulla. Questa invece, Fondo Indennizzo Risparmiatori, è il 18 di giugno, ma l'avvocato Puschiasis ci spiega perché c'è questa scadenza. Prego, avvocato. Sì, giustamente questa scadenza arriva da una proroga. L'originaria scadenza era quella del 18 di aprile, a causa dell'emergenza coronavirus, con il decreto Cura Italia poi convertito, è stata posticipata la scadenza al 18 di giugno. C'è molta frenesia tra i risparmiatori, perché ovviamente tanti non sono riusciti ancora a venire in possesso dei documenti necessari per poter presentare la domanda. Alcuni si sono presentati all'ultimo presso gli sportelli delle banche per chiedere questi documenti e quindi comprensibilmente sono giorni molto frenetici. Basti pensare che proprio dagli ultimi dati Banca Intesa dichiara che nelle ultime settimane, quindi dopo il lockdown, hanno all'incirca una media di 350 richieste giornaliere di documenti per la presentazione delle domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori da parte di nuovi risparmiatori che non si erano ancora mai rivolti alla banca. Quindi siamo veramente impegnati su tutti i fronti, sia le associazioni che stanno assistendo i risparmiatori, sia il sistema bancario inteso come Banca Intesa e come le altre banche che oggi sono chiamate a collaborare per poter permettere a questi risparmiatori di venire in possesso dei documenti. Consap, ecco, sta già processando le domande che sono già state caricate, perché le domande era possibile caricarle dal 23 di agosto 2019, quindi abbiamo avuto una finestra temporale molto ampia, e dal 25 di maggio Consap sta già iniziando a chiedere ai risparmiatori che appunto hanno già caricato le domande eventuali integrazioni a quelle domande. Quindi la macchina è già partita, è già in movimento e insomma siamo agli sgoccioli, ecco. Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la presentazione delle domande. Devo dire, mi lascia quasi un po' perplesso, io prima non l'ho ricordato ma lo faccio ora, mi scuso. L'avvocato Barbara Puschiasis è il presidente di Consumatori Attivi, oltre ad essere, e la ringraziamo, una degli esperti che rispondono, delle esperte che rispondono al nostro servizio di Omo Covid. Mi sorprende un po', dicevo, avvocato Puschiasis, questa cosa dei nuovi risparmiatori, cioè pur essendo una chiamata all'indennizzo che è attiva da diversi mesi, però molti non, evidentemente non sono stati informati o hanno preferito attendere. Vi siete fatti un'idea del quanta può essere la massa dei risparmiatori ancora che devono presentare domanda? Allora, dal nostro osservatorio, coloro che noi seguiamo già da diverso tempo, quindi da 5 anni a questa parte, si sono già mossi, ma ancora a luglio dell'anno scorso. Quindi questi ultimi di cui ci riferisce Banca Intesa probabilmente, insomma, sono i ritardatari, ecco, coloro che forse erano indecisi fino all'ultimo se presentare o non presentare la domanda e ora, insomma, si sono affrettati a correre in banca per richiedere i documenti. Effettivamente i numeri, insomma, lasciano un po' basiti, perché sono veramente tantissime persone. Parliamo di circa 1500 persone a settimana che si rivolgono ai portali di Banca Intesa per richiedere i documenti, e Banca Intesa si trova nelle condizioni di non poter consegnare a queste persone i documenti perché non c'è il tempo per la ricerca. La normativa sul fondo indennizzo risparmiatori assegna alle banche 30 giorni per poter consegnare i documenti per l'accesso al fondo. Quindi effettivamente, se uno presenta oggi la domanda, arriverà al 18 senza i documenti. È a rischio, diciamo, è quasi certo di non riuscire ad ottenere i documenti. Senta, io lo so che dovrei saperlo e lei può sgridarmi, ma mi riepiloga quali sono le entità dei risarcimenti, degli indennizzi che sono stati stabiliti? Perché non mi voglio avventurare in terreni minati e forse è meglio se lo fa lei. Allora, l'indennizzo è previsto nella misura del 30% per quanto riguarda le azioni e del 95% per quanto riguarda le obbligazioni subordinate delle banche risolte o poste in liquidazione. E questo importo viene calcolato sul prezzo medio di carico, che ad esempio per le azioni è proprio il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni nel corso del tempo. Ricordiamo anche come ci siano diversi azionisti che nel corso del tempo abbiano anche affrancato il prezzo delle azioni, quindi per affermarlo ad un prezzo superiore e corrente rispetto a quello di acquisto. Anche l'affrancamento, quindi gli oneri fiscali, vengono indennizzati attraverso il fondo indennizzo risparmiatori sempre nella misura che ho detto prima. Quindi ad esempio per quanto riguarda l'affrancamento delle azioni avremo sempre un indennizzo pari al 30% degli oneri fiscali pagati. Chiaramente per poter ottenere questo 30% è necessario che il risparmiatore produca la prova dell'avvenuto pagamento, quindi produca l'F24 che aveva provveduto a pagare per poterle affrancare. Ricordo anche un'altra cosa, cioè il tetto massimo di indennizzo, che è di 100.000 euro al risparmiatore. Esatto, questo è molto importante precisarlo. Se sono stati gli acquisti superiori, purtroppo non saranno soggetti così a indennizzo. Assolutamente sì, ce ne sono diverse di posizioni, diciamo, grosse, quindi con un numero di azioni importanti, e pertanto è bene sapere che oltre i 100.000 non si va. Altra cosa che voglio ricordare è che chi ha aderito alle offerte pubbliche di transazione deve sottrarre l'importo che ha già ricevuto a titolo di rimborso da quello che è l'indennizzo. Quindi, sì, ad esempio per le banche venete la transazione prevedeva del 2017 prevedeva un rimborso pari a circa il 15%. Questo 15% dovrà essere detratto dal 30% che viene riconosciuto dal fondo indennizzo risparmiatori. Con la norma. Aspetti un attimo, avvocato Puschiasis, perché abbiamo le informazioni sulla viabilità, cioè in una parola il traffico. Due di denari. Stiamo così, per così dire, facendo il punto nave di nuovo del fondo indennizzo risparmiatori. Ci sta aiutando l'avvocato Barbara Puschiasis, che è presidente di Consumatori Attivi. Ricordiamo magari le banche che sono coinvolte, avvocato Puschiasis. Allora, parliamo di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa Risparmio Provincia di Chieti, Cassa Risparmio di Ferrara, Popolare Vicenza, Veneto Banca e banche da loro controllate. Questo lo dico perché purtroppo ci sono stati anche altri così barcollamenti bancari, non mi viene un termine più felice in questo momento, abbia pazienza, però per questi tipi di risparmiatori, per questi tipi di tensione, nulla è previsto. Il fondo di inizio risparmiatori riguarda le banche che ho citato io. Dobbiamo precisare qualche cos'altro a questo proposito, avvocato? Ma possiamo precisare il numero anche dei risparmiatori che si sono trovati coinvolti in questi dissesti finanziari e ai quali il Fondo Indennizzo Risparmiatori si rivolge, che sono all'incirca 350.000. Questo è un dato ovviamente complessivo. Da questo dato dobbiamo togliere tutti coloro che non rientrano in realtà nel fondo, quindi le società per azioni, quindi insomma tutte quelle realtà che non possono proprio presentare la domanda al fondo indennizzo. Ad oggi i numeri delle domande presentate sono i seguenti. Allora, per quanto riguarda gli azionisti di queste banche, abbiamo già presentate 100.000 domande. Per quanto riguarda gli obbligazionisti subordinati, 10.000 domande. Poi ricordiamo anche che c'è un doppio binario, nel senso che chi ha un reddito imponibile IRPEF al 2018 inferiore a 35.000 euro oppure un patrimonio mobiliare sempre riferito al 2018 inferiore a 100.000 euro accede attraverso il primo binario, così chiamato indennizzo forfettario. Nel senso che basta presentare la domanda, dimostrare di essere nel possesso di queste azioni, di questi titoli e in automatico verrà liquidato il 30% per le azioni di indennizzo e il 95% per le obbligazioni subordinate. Se invece si sforano questi parametri reddituali e patrimoniali, allora si passerà attraverso una valutazione più complessa della domanda e anche la domanda dovrà essere motivata, perché bisognerà dimostrare di aver subito quelle che vengono definite violazioni massive, cioè violazioni della normativa bancaria e finanziaria. Per quanto riguarda appunto i due canali abbiamo dei dati, nel senso che il 90% delle domande che sono state presentate ad oggi riguardano il canale dell'indennizzo forfettario, mentre l'ulteriore 10% riguarda il canale delle violazioni massive. Ricordo anche che coloro che rientrano nelle violazioni massive devono poi sottoporsi alla valutazione da parte della commissione tecnica. Quindi, infatti questo allunga un po' i tempi di erogazione, immaginiamo. Prego. Anche perché proprio la norma del fondo indennizzo risparmiatori va a scaglionare quelli che sono i pagamenti, nel senso che dà la priorità a coloro che rientrano nel primo binario e hanno diritto ad un indennizzo inferiore a 50.000 euro. Poi ci saranno gli altri, quindi coloro che rientrano sempre nel primo binario ma hanno diritto a un indennizzo superiore ai 50.000 e dentro i 100.000 e poi coloro che invece accedono al secondo binario, quindi alle violazioni massive. Ecco, ma allora, sapendo tutto questo, immaginiamo che non cambi più nulla. Il 18 di giugno si chiude la finestra per presentare la domanda. Chi ha presentato e chi non ha presentato, ohimè, resterà senza indennizzo. Quando potrebbero effettivamente arrivare i primi ristori, i primi bonifici, per dirla proprio brutalmente? Questa è una domanda da $1 milione, nel senso che ad oggi ci stiamo spendendo molto anche come associazioni appunto dei risparmiatori, chiedendo a tutte le forze politiche di fare pressione sul governo al fine di ottenere una semplificazione delle norme sui controlli, anche alla luce di quelli che sono i controlli sulle misure Cura Italia e coronavirus a sostegno di imprese e cittadini. Mi spiego meglio, ad oggi sarebbe previsto che la Consap, che gestisce il Fondo Indennizzo Risparmiatori, faccia una prima verifica, diciamo, formale della domanda per vedere se è corredata di tutti i documenti e gli elementi necessari per l'evasione di quella domanda. Poi quella domanda dovrebbe essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la valutazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali del risparmiatore. E ovviamente questo doppio passaggio comporta degli allungamenti dei tempi notevoli, considerato anche il carico adesso di lavoro che ha la stessa Agenzia delle Entrate. Perché prima ho fatto riferimento alle misure coronavirus? Perché le misure coronavirus di sostegno appunto anche ai cittadini prevedono un controllo ex post sulle domande di incentivi, eccetera, bonus dei cittadini da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi noi stiamo chiedendo la stessa cosa, l'applicazione dello stesso meccanismo. Cioè, prima erogare, poi controllare, insomma, esatto. Tanto più che mi sforzo di seguire quello che potrebbe essere stato anche il ragionamento della vostra richiesta. Qui c'è già stato un percorso abbastanza articolato di presentazione di documenti, contatto col sito, richiesta di documenti in banca, insomma. È difficile che uno abbia messo in piedi tutto questo e poi, come dire, abbia ancora bisogno di un ulteriore controllo su cose che si presume ha già dovuto controllare più volte. Esattamente, poi si tratta comunque di autocertificazioni e sappiamo tutti il valore che hanno, quindi insomma c'è una responsabilità che va oltre anche il profilo civilistico, no? di colui che presenta la domanda. L'altra nota che bisogna fare è che effettivamente i risparmiatori sono esasperati, perché si parla di 5 se non addirittura 6 anni nei quali hanno dovuto in ogni luogo, in ogni modo andare a dimostrare quelle che erano delle violazioni, peraltro abbastanza eclatanti, della normativa bancaria e finanziaria e già accertate anche dagli organismi di vigilanza sia italiani, Banca d'Italia e Consob, sia europei, BCE, e adesso anche attraverso la nostra giustizia, che comunque a rilento ma ci sta dando delle risposte. Quindi i risparmiatori dicono: ma cosa dobbiamo ancora provare? Anche perché stiamo parlando di vicende, appunto diceva 2014-2015, insomma non è proprio successo ieri e quindi chiediamo un po' di pazienza. Qui diciamo la dimostrazione di pazienza c'è stata. Però si parla di ulteriori proroghe, o sono male informato io? Cioè qualche ulteriore ritocco e rinvio in avanti ancora potrebbe intervenire? Sul tema proroghe le associazioni sono divise, nel senso che appunto coloro che sono sul pezzo da sempre, ormai i documenti li hanno chiesti anche da 9-10 mesi, e per coloro, per i ritardatari, c'è la possibilità anche di caricare la domanda oggi incompleta, anche senza i documenti, e poi ci sarà la possibilità di integrare quei documenti o quegli elementi che mancano nella domanda nell'ulteriore termine che la Consap concederà di 60 giorni per poter appunto completare il percorso. Quindi nessuno in realtà rischia di stare fuori dalla procedura, anche se non ha i documenti può caricare lo stesso parzialmente la domanda. Andare ad allungare i tempi, come da qualcuno richiesto, anche addirittura fino ad ottobre, metterebbe a rischio la stessa vita del fondo, noi riteniamo, perché ottobre, me lo spiegate ancora meglio voi, è un mese molto delicato, così come tutto l'autunno, anzi. Sì, specialmente perché non sappiamo cosa sarà, insomma, se ci sarà, faccio tutti gli scongiuri possibili, come sempre in questo caso, non sappiamo se ci sarà una ripresa di questo benedetto virus, quindi insomma tutto è molto nebuloso però su ottobre, su settembre-ottobre. Prego, avvocato. Esattamente, oltretutto insomma dovremo parlare della nuova legge di bilancio, anche di una manovra finanziaria che sicuramente sarà anche difficile da affrontare e da costruire. Quindi ricordiamo che sul fondo ci sono 1.575 milioni di euro che arrivano dai conti e polizze dormienti. È un tesoretto che insomma potrebbe far gola a qualcuno. Quindi noi chiediamo veramente che si proceda il prima possibile a istruire queste domande e a pagare. E perché... a chiudere la vicenda in qualche modo, sì, insomma, senza sì. ulteriori dilazioni che magari potranno anche così incontrare il favore di qualche ritardatario, davvero molto ritardatario, ma che a questo punto insomma ha avuto più chiamate, più appelli possibili per presentare esatto. la domanda. Allora, grazie. Aggiungo solo un'ultima nota. Prego. Queste persone stanno vivendo oggi, lo ripeto ogni volta, una doppia tragedia, perché prima hanno perso i loro risparmi e oggi stanno vivendo l'emergenza coronavirus che colpisce tutti. Emergenza coronavirus che ha portato a una contrazione anche delle entrate nelle famiglie. Quindi certo. queste persone non possono più contare su quei risparmi che avevano messo da parte proprio per queste situazioni. Perché erano i risparmi che si sono volatilizzati. Grazie all'avvocato Barbara Puschiasis, e Due di Denari torna domani in due, perché torna anche Deborah. A domani.